Storie, storielle, storiacce di Raffaella Calandra. Noi sapevamo che c'erano degli elementi che aprivano altre letture. Non sto dicendo che poi quella potrebbe essere la pista giusta. Quante volte mi ha chiesto di raccontarvi la vostra giornata del 2 agosto? Ognuno poi se la ricorda a modo suo. È veramente un buco nero per tutti. Per la giustizia italiana, Francesca Mambro, insieme al compagno Valerio Fioravanti, mise la bomba nella sala d'attesa della stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200. Per il più sanguinoso attentato compiuto in Italia in tempo di pace, sono stati condannati all'ergastolo, sia pur dopo un'altalena di sentenze, ma loro, gli ex terroristi neri, da sempre respingono questa accusa e così salutano positivamente l'apertura di un nuovo fascicolo. Il racconto della Mambro di quella giornata di 26 anni fa parte quindi da qui, da questo presupposto. La cosa che mi ricordo è che, in particolare, è che pensavo appunto che potevano esserci le nostre famiglie che andavano in vacanza, che prendevano il treno, che partivano, si muovevano. Cioè, per me, io ero parte della nazione, non ero una nemica del mio paese che faceva saltare le persone. Quindi ero coinvolta come tutti gli altri e lo sono stata anche nei giorni successivi. Nel seguire le notizie, nel seguire i soccorsi. Esserci anche persone che conoscevamo, dai nostri familiari agli amici. La gente che ascolta, la prima cosa che vorrebbero sentire è il racconto appunto su quella giornata. Mi ricordo che fu la radio a dare la notizia per prima. E la radio che disse appunto che c'era stata un'esplosione con del gas. GR1, edizione straordinaria. Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario. Possiamo dirvi che abbiamo cercato di capire, di sapere quali sono state le cause di questa esplosione. In un primo momento si pensava che fosse esplosa una caldaia. La polizia, che sta indagando, ha il sospetto che si tratti di un attentato terroristico. Ma comunque il punto centrale dell'esplosione non era sopra le caldaie? Ah, io lo conosco bene quel posto lì, tu immagini che con mio padre ci ho lavorato in quelle caldaie lì parecchi anni fa, quando lo costruimmo, sapevo benissimo dove erano le posizioni, quindi non poteva sicuramente essere così. Le comunicazioni radio registrano da subito l'incredulità degli operatori sull'ipotesi della caldaia, che invece nelle prime ore viene sempre più accreditata nei palazzi della politica, tanto che il GR1 della RAI è costretto a fare marcia indietro. Devo smentire, almeno parzialmente, perché sta prendendo sempre più credito, invece, da un primo esame dell'epicentro dell'esplosione, adesso che molte macerie sono state rimosse, l'ipotesi che sia invece scoppiata una caldaia dell'acqua calda posta nel seminterrato del ristorante. Per me il 2 agosto doveva essere una giornata come le altre, nel senso che io allora ero latitante, quindi per me era un giorno in cui dovevo appunto trovarmi in posti sicuri, non potevo andare in giro, eravamo ricercati. Però ecco, quello che mi ricordo è che pensai subito ai miei fratelli, perché pensavo che stavano partendo per le vacanze, pensavo alla mia famiglia che era in viaggio magari, e quindi mi ricordo che chiesi informazioni per sapere dove fossero. La notizia credo che la sentì uno dei nostri coimputati, compagni del gruppo, che l'aveva sentita alla radio. Mi ricordo che poi la sera abbiamo visto il telegiornale, le immagini, ed era una tragedia in mano, una cosa spaventosa, vedere tanta sofferenza. A Padova. Noi eravamo a quell'epoca a Treviso, dormivamo a Treviso con Cavallini, e quindi abbiamo visto da lì. A Padova eravamo andati perché dovevamo prendere delle armi. Mi ricordo una giornata calda, un mercato. Una delle bombole del gas erano esplose, questa fu la prima notizia. Poi col passare delle ore o il giorno dopo si parlò subito di strage fascista e lì cominciai a pensare che forse eravamo già nei guai. Però nelle aule del processo il vostro alibi di Padova alla fine non è stato creduto, non ha retto. Ma non è vero, perché noi siamo stati assolti in secondo grado. La giuria popolare invece ha ritenuto che le testimonianze e dei nostri computati e delle persone che ci hanno visto quel giorno erano affidabili, autentiche, quindi però non c'è di fronte... Alcuni l'hanno letto così, altri no, e questo è stato anche per tutte un po' le dichiarazioni che sono arrivate dai vari, chiamiamoli, pentiti. Ma non esistono pentiti in questo processo, in realtà esisteva soltanto un collaborante che diceva appunto di averci incontrato in quei giorni e sosteneva che noi avevamo bisogno di documenti perché eravamo stati riconosciuti. Questa cosa è stata dimostrata che non era assolutamente vera. Un collaborante legato alla banda della Magliana, quindi a tutto quel mondo dei servizi segreti, che poi oggi sappiamo che hanno lavorato perché non si indagasse da nessun altro punto di vista. Un soggetto come Sparti era quell'elemento che serviva per chiudere il cerchio. La voce di Francesca Mambro è un soffio che a volte quasi si perde nel fruscio di un microfono che decide di mettersi a gracchiare. È teso il suo volto e la gamba sinistra oscilla nervosamente, ma le parole sono categoriche mentre ripete che lei e Valerio, diventato nel frattempo suo marito e padre di sua figlia, quel giorno a Bologna non c'erano. Sia pur tra condanne, rinvii, assoluzioni e depistaggi, per la giustizia invece sono loro gli esecutori materiali della strage. La prima sentenza arriva l'11 luglio 1988. La seconda corte d'assise di Bologna condanna all'ergastolo come esecutori della strage Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Facchini e Sergio Picciafuoco. Per depistaggio vengono invece giudicati colpevoli il maestro venerabile della P2, Licio Gelli, gli alti funzionari del SISMI, il generale Pietro Musumeci e il colonnello Giuseppe Belmonte e il faccendiere Francesco Pazienza. L'appello inizia l'anno dopo e dopo 9 mesi di procedimento e 80 udienze, in un'altra calda giornata di luglio, il verdetto viene ribaltato. Gli imputati sono tutti scagionati dal reato di strage. L'MSI chiede la cancellazione dalla lapide presso la stazione di Bologna della scritta strage fascista. Si va in Cassazione e il 12 febbraio 1992 la Suprema Corte rimanda indietro la sentenza, che giudica priva di coerenza e scarsamente motivata. Il secondo grado, dunque, è da rifare. Al processo d'appello bis, 12 giorni dura la Camera di Consiglio, al termine della quale il presidente Giuseppe Bagnulo, il 16 maggio 1994, conferma le condanne di primo grado. La bomba nella sala d'attesa, secondo questa nuova pronuncia, fu messa da ragazzini terribili dei NAR, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Il sigillo della Cassazione arriva il 23 novembre 1995 e conferma la sentenza del secondo processo d'appello. In procedimenti stralcio, al troncone principale, sono stati invece assolti dall'accusa di strage Facchini e Picciafuoco, mentre è ancora in attesa di una sentenza della Cassazione Luigi Ciavardini, ex di terza posizione, con una militanza anche nei NAR. Il 2 agosto del 1980 era minorenne. Condannato per l'omicidio dell'agente di polizia Evangelista e del giudice Amato, per l'accusa di strage il 30 gennaio 2000 è stato assolto dal Tribunale dei Minori di Bologna. Il secondo grado ha ribaltato il giudizio, invece, e Ciavardini è stato condannato a 30 anni. Riarrestato di recente per rapina, Ciavardini aspetta ancora la sentenza definitiva, mentre a Bologna, per la strage, è stato aperto un nuovo fascicolo contro ignoti. Gli spunti arrivano dall'apertura degli archivi dell'ex Repubblica tedesca attraverso la commissione Mitrokhin. Intanto l'inchiesta probabilmente è stata riaperta a torto collo, perché venivano chieste dalla magistratura tedesca delle spiegazioni in merito alla presenza di esponenti del terrorismo tedesco legati a Carlo, detto lo sciacallo, il quale aveva una rete legata ai servizi segreti dell'Est e al Movimento per la Liberazione della Palestina. Quindi la situazione apre nuovi scenari, di cui però ecco io non mi sento di dire è la nuova pista, anche perché questi elementi erano a conoscenza della magistratura italiana. Si parlavano di questi testimoni bolognesi, di un portiere di un albergo che aveva riconosciuto un esponente di questo gruppo Seprat, ovvero la Krista Frolic, dopo che è stata arrestata con una borsa piena di esplosivo. Thomas Cram, che è a Bologna il 1 agosto. Allora, da questa nuova situazione in teoria si potrebbero trovare altre ipotesi, però io la cosa che temo è che sono talmente affezionati all'accusa contro di noi, io lo spero, ma sarà difficile, che mettano in movimento gruppi investigativi per sapere che cosa è accaduto nel 1980, perché probabilmente loro hanno soltanto deciso che non si doveva indagare su tutto ciò che era legato alle piste internazionali, su tutto ciò che era terrorismo medio orientale, probabilmente per proteggerli da quello che poi era il tale, che all'epoca aveva fatto tanti morti. Un po' quasi la linea di Gelli. Quello che ho visto durante il processo, non c'era niente contro di noi, c'è invece molto su altri. E perché non si è indagato? Forse qualcuno prima o poi magari dirà: siamo in una fase nuova di questo paese, quindi si può anche rinunciare a un teorema per capire che cosa è veramente accaduto. Un augurio che Francesca Mambro formula soprattutto pensando ad Arianna, sua figlia, perché anche se con una condanna definitiva all'ergastolo, lei e Valerio sono ormai fuori dal carcere per una riparazione della politica, ci dirà tra poco.